Davide Castani, benvenuto. Buon pomeriggio anche da parte mia. Avete visto i corridori a contare i pignoni, oggi servono rapporti da mountain bike. È la salita che tutti temono, che tutti aspettano. Più di 100.000 persone su queste rampe per rendere ancora più spettacolare questo arrivo. Buona visione. Vieni al Tour de France, vieni insieme a me. Un giro come questo al mondo non ce n'è. C'è il Mont Ventoux, l'Aubisque e il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louis-Jean Bobin. E allora buongiorno, buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di Radio Bidon. Non avete le allucinazioni, quelli che avete sentito in apertura sono realmente Davide Cassani e Auro Bulbarelli, che noi abbiamo ingaggiato straordinariamente oggi per sostituire il nostro anchorman di fiducia Filippo Cauz, che è in Francia, è realmente in Francia a seguire le ultime tappe del Tour de France. E Cassani e Bulbarelli saranno con noi quest'oggi a intermittenza, perché il budget di Bidon è questo, ci consente di averli un po' part time. Loro sono in postazione seguendo una tappa che non abbiamo capito bene cosa sia, ma vediamo se ci illuminano strada facendo. Io sono Leonardo Piccione, con me c'è Riccardo Spinelli. Ciao Riccardo. Buongiorno a tutti. Come stai? Bene dai, tutto a posto. So che ieri è stata una giornata importante anche per te, oltre che per il Tour de France. Sì, ho dato l'ultimo esame della sessione estiva, un esame di cui non me ne frega assolutamente nulla. Evviva! Quindi sei in vacanza ufficialmente anche tu. Sono in vacanza ufficialmente, laboratorio di fisica dei plasmi. Wow. E mi sono fiondato a casa a vedere il Tour. Mi sa che ti sei visto una bella tappa, finalmente ieri siamo stati tutti un po' sollevati dal fatto che il Tour ci ha regalato finalmente quantomeno un'ultima ora abbastanza spettacolare, un po' per motivi legati alla volontà dei corridori, di due squadre in particolare, adesso vedremo quali, di due uomini in particolare che hanno deciso di provare a ribaltare la situazione, e in parte per motivi esterni, la pioggia che ha complicato i piani della Sky, di Froome e di tanti altri protagonisti. Quanta gente abbiamo visto per terra ieri, Riccardo? Tanta gente. Proviamo a fare ordine sì, tra i caduti. Sì. Allora, tra i caduti, che sembra un po' caduti sulla strada, e poi tutti quanti per fortuna si sono ripresi. In ordine è caduto Roland, o meglio, in ordine in base a quello che ci hanno fatto vedere in televisione. Roland è caduto mentre era in fuga con Rui Costa. Successivamente è caduto Dumoulin, anche se è stata una caduta un po' stupida, non è caduto per in discesa, per l'asfalto bagnato o altre situazioni di questo genere. Stupida, però dobbiamo dire grave, perché si è fratturato il polso. Sì, probabilmente si è fatto, non si sa ancora bene, ma probabilmente si è fratturato il radio sinistro. E è una notizia brutta, perché si rischia di non vedere Dumoulin a Rio nella crono, e quindi era uno dei favoriti, si parlava di medaglia già assegnata praticamente, quindi ci dispiace, sì. Si dispiace un sacco, speriamo possa recuperare. Sì, arrivava in formissimo, anche perché questo Tour ci ha fatto vedere tante cose. Poi è caduto Mollema, che è sceso visibilmente in classifica, adesso si trova al decimo posto, anche un po' per la caduta, poi perché probabilmente non aveva le gambe, e ha perso veramente tanto. E poi la caduta più illustre è quella di Froome, che è caduto, e dopo essere caduto Nibali per cercare di schivarlo è caduto anche lui, e si è fatto un po' di escoriazioni sulla spalla. E però anche in questa situazione abbiamo visto un grande team, che è quello della Sky, che lo hanno subito accudito, i suoi gregari. Geraint Thomas gli ha dato la bicicletta, lui ha continuato con quella, e sappiamo che per Froome, diciamo, la misura della bicicletta sono importanti, invece è andato avanti con quella abbastanza bene, direi. Sì, per uno che cura i dettagli nei minimi particolari come lui, correre il resto della tappa su una bici non sua deve essere stato faticoso, però si è difeso alla grande. Una delle scene che forse ci ricorderemo di più di questo tour è la sua pacca sulla spalla di Poels all'arrivo, proprio a significare la riconoscenza nei confronti di una squadra che ieri l'ha letteralmente accudito, come hai detto tu. Tra gli altri caduti mi vorrei ricordare ancora una volta Roland, perché ha scritto un post su Instagram veramente emozionante sul suo passaggio dalla speranza di poter vincere la tappa, detto in una giornata splendida ieri, all'inferno, come lo definisce lui, di essere caduto, di aver visto questa occasione sfuggire. Poi vi pubblicheremo il link del post, perché è davvero, davvero bello il post di Pierre Roland. Ma dobbiamo interromperci un attimo perché ci chiedono la linea i nostri inviati. Vedo un corridore uscire dal gruppo, questa in gergo viene chiamata visita parenti. I corridori, gli altri sanno che scatta il corridore per andare a salutare i parenti e quindi lasciano spazio. Sì, non è che possano fermarsi, Silvio, perché... Ah, c'è anche Martinello. È piuttosto lanciato. Sì, è una visita. Dove sono, tra l'altro? Un po' anomala rispetto a quelle che siamo abituati a vedere, no? Perché il gruppo sta andando molto veloce, quindi devono naturalmente anticipare di qualche metro il gruppo e devono impegnarsi per poterlo fare. Vabbè, scusate, c'è stata questa interferenza. Torniamo a noi. Riccardo, qualcosa dobbiamo dire ovviamente anche su Nairo Quintana, che è apparso leggermente in ripresa ieri. Sì, è apparso in ripresa. Quintana è arrivato insieme a Valverde, anzi Valverde l'ha preceduto, e sì, è sempre un po' sulle sue, nel senso non lascia mai trasparire le sue sensazioni. È difficile anche decifrarlo, Quintana è diventato un po' un personaggio ambiguo. E, comunque sì, è arrivato coi migliori e... Si parlava di allergia nei giorni scorsi, quindi qualcuno dice che la pioggia di ieri e di questi ultimi giorni di tour possa favorirlo e farlo tornare nel suo stato di forma migliore. Vedremo cosa succederà oggi. Tra gli altri protagonisti vorrei parlare un attimo di Purito Rodriguez, che è arrivato secondo ieri. E siccome è il suo ultimo tour, non ci fa piacere questo. E poi Yates, io mi sono emozionato perché Yates sembrava in estrema difficoltà e invece con un rapporto durissimo è riuscito comunque a stare lì e adesso comunque si trova quarto in classifica, a poco dal podio ancora. Sì, aggiungo soltanto una cosa su Purito, grandissimo, come hai detto già tu, e un grande anche Valverde, sono arrivati praticamente insieme, loro due, e in prospettiva Rio de Janeiro, la nazionale spagnola davvero comincia a far paura se già non la faceva prima. Concludiamo un attimo il discorso prima di dedicare un'ampia pagina a Romain Bardet con Mollema, con Bauke Mollema, che personalmente, devo dire, mi ha ricordato un sacco il destino di Kruijswijk nella penultima tappa di montagna dell'ultimo giro, quando si è trovato da solo a difendere la sua posizione in classifica dopo una caduta. La caduta di Mollema di ieri è stata meno grave, ma comunque la situazione è stata paragonabile, ed è il terzo grande giro consecutivo dopo la Vuelta con Dumoulin, il Giro d'Italia con Kruijswijk, il Tour 2016 con Mollema, con un olandese che si trova in ottime posizioni di classifica fino alla fine della corsa e poi crolla per un motivo o per l'altro. Quindi segnaliamo questa nota statistica abbastanza triste per l'Olanda. Tra l'altro, non so se l'ho notato solo io, ma abbiamo visto Pantano che per un certo tempo ha scortato come un compagno di squadra Mollema. Non so se volutamente o che cosa, ma anche questo mi ha emozionato personalmente. E a proposito di Jarlinson Pantano, sai chi c'è ora, Riccardo? Sì, c'è proprio lui, l'invadente. Nuova puntata dell'invadente, questa volta purtroppo dall'Italia, dove sono dovuto rientrare per poter carpire nuove fonti e gli interlocutori più affidabili dal mio maestro di vita e di lavoro Beppe Conti, e grazie a lui sono arrivato ad uno scoop incredibile, ovvero Il presidente della Colombia, Juan Manuel Santos, è talmente esaltato dalle prestazioni di Charlinson Pantano, che è in fuga praticamente sempre e scalda i cuori di tutti gli appassionati di ciclismo, tanto da costringere il proprio presidente a fondare di nuovo la mitica Colombia, team che si era reso noto in particolare un paio di anni fa per i body in tenuta nude look per le donne alquanto discutibili, e questo nuovo team avrebbe come capitano indiscutibile Charlinson Pantano, ma soprattutto vedrebbe l'esclusione illustre di Nairo Quintana, che a seguito delle prestazioni un po' deludenti dell'ultimo tour ha visto i pareri e i favori un po' scendere, e quindi si ritroverebbe senza squadra e, se va bene, al massimo come gregario di Charlinson Pantano. Quindi staremo a vedere, noi tifiamo per questa squadra e soprattutto speriamo che ripropongano i nude look, questa volta al maschile, perché ci sarà solo da divertirsi. A presto, e un saluto anche da Beppe Conti, che è accanto a me ma ora fa il modesto. Ma dai, ma com'è la Colombia senza Quintana? Ma dai, ma questo qui è un cialtrone, a parte il fatto che trasmette dalla tangenziale, sentivo sto rumore di motorini in sottofondo, lascia stare. Ci chiede la linea di nuovo Aulo, sentiamo lui piuttosto. Vediamo, uomo sì. Che sembrava fosse intenzionato ad accelerare, invece... in realtà si è fermato a far pipì. Ma come Aulo, ma dai, ma mi chiedi la linea per questa informazione qua. Vabbè, mi sa che oggi la giornata è un po' così. Vediamo invece se riusciamo finalmente a parlare con Kautz. Filippo, ci sei? Dove sei? Sì, in realtà sono al Tour de France, ma non sono in Francia in questo momento. So che questa cosa è vergognosa, soprattutto per i miei trascorsi di tifo per i corridori di casa. Sono in Svizzera, sono vicino a Ginevra. A tra pochi minuti ci metteremo in marcia, saliremo su un'auto che ci è stata messa a disposizione dalle Coq Sportif, sponsor tecnico del Tour de France, che ci porterà alla partenza di Megève, e da lì seguiremo l'intero percorso della tappa fino a Morzin, sperando che il tempo sia clemente, perché non sembra proprio in questo momento. Però... no. Vedremo, ieri abbiamo visto l'arrivo, un arrivo che chiaramente ha esaltato completamente il popolo francese, benché io ora mi trovi in Svizzera, però ho tastato con mano la soddisfazione dei francesi, l'ho vista anche in televisione ieri sera, una serie di servizi che celebravano non soltanto la prima vittoria di tappa di un francese, ma che vittoria, la vittoria di un corridore che è sempre più nel cuore dei francesi, e non soltanto nel cuore mio ovviamente, ma nel cuore credo di tutti gli appassionati di ciclismo, perché Romain Bardet è veramente rimasto una mosca bianca in questo gruppo, è uno che non ha mai paura di attaccare, che sia in salita, che sia in discesa, è sempre molto ben focalizzato all'obiettivo. L'obiettivo era sicuramente una vittoria di tappa, a questo punto l'obiettivo è sempre più realistico, anche quello di un podio, perché... Bardet in questo momento è secondo, il vantaggio sul quarto Yates è di 25 secondi, ma quanto visto ieri ci dice di un Bardet che in montagna va forse meglio di chiunque altro, sicuramente meglio di chiunque altro in discesa, sicuro. Penso che anche in salita abbia dimostrato di sapersi difendere. Io non credo che oggi, almeno spero, non voglio gufargliela pure a lui, povero Romain, ma non credo che oggi Romain Bardet perderà il suo podio. Adesso però devi raccontarci per bene l'accoglienza dei francesi nei confronti della grandissima impresa che ha fatto ieri Romain Bardet. Ce lo puoi dire tu che sei lì. Ma Bardet è stato innanzitutto accolto con un boato quando è arrivato al traguardo. Ho avuto l'impressione che oltre all'urlo della folla ci sia stato anche l'urlo di Romain Bardet, che è arrivato, era veramente ebro di gioia, non so, stavo riguardando ieri sera le interviste e... quasi scoppiava a ridere, era ancora più contento di quanto era stato felice lo scorso anno per la sua prima vittoria di tappa. E poi vabbè, la risposta della folla è appunto quella di un primo corridore francese che vince una tappa, e penso anche quella di finalmente una tappa che non ha dato spettacolo certo durante tutto il suo svolgimento, però che ha avuto un finale abbastanza caldo, a prescindere dal clima, e questo il pubblico lo aspettava, e un corridore come Bardet ha saputo rispondergli, per cui c'è una festa che è quella dei francesi e c'è una festa che è quella degli appassionati di ciclismo davanti a una vittoria del genere. E per il resto del podio come la vedi? Io ho visto ieri di nuovo una grande Astana, hanno controllato all'inizio e alla fine, lavorando per Aru, che poi non è riuscito completamente a finalizzare il lavoro, cioè non ha vinto la tappa, anche se ha guadagnato un'altra posizione in classifica generale, però insomma niente da dire, rispetto, grande coraggio, grande volontà. Per gli altri invece cosa si può dire? Il resto del podio invece è tutto da discutere, perché Quintana incredibilmente ci è risalito, lo davamo per troppo presto. Yates ieri è apparso un po' al gancio, credo abbia pagato anche parecchio il clima, perché mi sembrava soffrire molto. Non pioveva soltanto, faceva anche un bel fresco su in montagna e penso che anche oggi sarà una giornata molto diversa dal caldo che hanno patito durante tutto il Tour de France. E non so, ho avuto l'impressione che Adam Yates abbia un po' sofferto anche questa componente climatica. E poi vabbè, e poi c'è lì dietro, c'è Richie Porte, che abbiamo visto come va ormai. Il discorso di Richie Porte che crolla nella terza settimana non lo possiamo più fare, non lo possiamo fare per Fabio Aru che ci proverà, ci ha provato ieri con la Astana, ci riproverà anche oggi sicuramente. Tappa di oggi invece, che ci racconti? E oggi appunto si parte per la tappa che a inizio tour doveva essere la tappa decisiva, la Megève-Morzine, 146 km, vista come si è messa la classifica difficilmente sarà la tappa decisiva per la vittoria del tour, a meno di sfracelli. Ma sarà una tappa in cui in tanti ci proveranno. Oggi io sono sicuro che vedremo lo spettacolo, un po' perché nel ciclismo dell'attesa l'ultimo giorno è sempre quello in cui lo spettacolo si vede, e un po' perché il terreno c'è. Nonostante sia così corta, si parte appunto, noi stiamo per trasferirci a Megève, dove troveremo il gruppo pronto a partire, e anzi prima la lunghissima carovana in cui poi noi ci infiltreremo e poi il gruppo pronto a partire. Si parte col Col d'Aravis, che è una vetta abbastanza facilmente affrontabile, anche se sappiamo che queste partenze difficili da subito fanno male, soprattutto a fine tour. Poi c'è la Colombière, una lunghissima discesa che porta fino a 500 metri sul livello del mare, e da lì si sale per la Ramas e per il gran finale. Fin qui non vedremo nulla tra i big, vedremo forse un bel ritmo in quella parte, quella decina di chilometri di pianura che c'è prima dell'inizio del Juplan. E poi il Juplan, maledettissimo. Il Juplan. Ha mandato in bambola persino Lance Armstrong. Già. È veramente una salita che non lo so, è una salita stronza il Juplan. È una salita che può mettere in crisi chiunque, perché puoi crollare anche a metà, anche alla fine, ma appena crolli, sono 11,6 km, appena crolli, soprattutto nella seconda metà, che va verso il 9-10%, lì non rientri più. E adesso ti tocca, Kautz, il pronostico per oggi, forza, diccene uno. Non fatemi fare pronostici, anche se ieri ho visto arrivare terzo di nuovo Valverde e un arrivo del genere. Eccolo qui, Che non ci siano problemi aperti di classifica con Quintana, gli stringe proprio, gli strizza l'occhio. Sì, sempre che riesca a scollinare su una salita maledetta come il Juplan con il resto del gruppo. Filippo, dobbiamo lasciarti, lo sai qual è la situazione, la tariffa internazionale è altissima, non ce la possiamo permettere. Ti salutiamo e tu ci fai sapere presto qualcosa di te, ok? Ok, io vi abbandono alle vostre chiacchiere, vi abbandono ai vostri divani e mi dirigo verso la carovana pubblicitaria del Tour de France, dietro la quale si snoderà la tappa. Beato te. Mi dirigo verso la festa di popolo che è il Tour de France, di cui non vedo l'ora di raccontarvi. Non sarà stasera, sarà nei prossimi giorni, sarà anche negli altri canali che useremo per raccontarvi questo Tour de France, che non so se vogliamo anticiparvi già oggi o se vogliamo tenervi sulle spine. Spine. Comunque, buona tappa a tutti, buon tour a tutti, a buona te. Fine di tour a tutti quanti, ciao. Ciao a te, Kautz, buon divertimento e portaci delle nuove. Mi dicono che c'è subito un aggiornamento dalla corsa, sentiamo. Lo scatto di Laurent Jalabert. Ma come Jalabert? Ma dove sono? In che epoca sono? Vabbè. Torniamo a noi ancora una volta. E quindi Kautz non si è sbilanciato troppo sulla tappa di oggi di Morzine, anche se un nome l'ha fatto. Proviamo a sbilanciarci un po' più noi due, Riccardo. Come va oggi? Kautz ha fatto il nome di Valverde, e Valverde c'è sempre, e lo dimostra il fatto che l'altro giorno ero qua a vedere il tour con mia madre, che non guarda mai il ciclismo, e mi fa... questo Valverde io lo vedo sempre di davanti, è veramente un mica c'ha torto, tutto l'anno che è sempre lì davanti. Io come favoriti do Aru, perché non penso che la Astana voglia andarsene via dal tour a mani vuote, perché non ha ancora vinto neanche una tappa. E poi il cuore mi dice Purito Rodriguez, che ieri è arrivato secondo e quindi ci riproverà anche oggi, penso. Sì, sono nomi abbastanza caldi i tuoi. Io oggi butterei 2 lire, se le avessi, su Nairo Quintana, perché ieri l'abbiamo visto in ripresa. Non credo che possa riaprire il tour, anzi crediamo che il tour sia abbastanza, almeno la lotta per la maglia gialla sia abbastanza chiusa, però è sul podio in questo momento, è terzo, quando l'ultima tappa sta per partire potrebbe addirittura migliorare la sua posizione e vincere una tappa e salvare in questo modo la sua spedizione francese, che fino a ieri pomeriggio intorno alle 5 era stata abbastanza disastrosa, poi è migliorata grazie alla pioggia. Già, cosa ci resta da dire? Prova a ripartire Gilberto. Oddio. Simoni. Oddio, Gilberto Simoni vuol fare la differenza in salita. Beh, certo. Gilberto Simoni. E Simoni fa la differenza in salita, eh? C'è anche Simoni in questa corsa, vabbè, ricomponiamoci un attimo. Oltre alla lotta per la maglia gialla e soprattutto quella per il podio, c'è un'altra lotta molto aperta, che è quella per la Lanterne Rouge. Come siamo messi lì? Sì, c'è sempre l'irlandese Sam Bennett, ultimo, e poi Lars Bak, distanziato di circa 15 minuti e si marcano a uomo, anche ieri sono arrivati insieme, quindi a meno di qualche incidente o qualcosa, direi che Sam Bennett è ultra favorito. Quanto sono distanziati? Quanti minuti li differenziano? Quasi 14 minuti. Eh beh, sai, un tappone alpino non è detto che non si possano recuperare, Quindi teniamo d'occhio anche la lotta per la Lanterne Rouge, perché anche lì può succedere davvero di tutto. Oddio, cos'è? Cade Menchov, cade in un tratto rettilineo. Ma cosa cade Menchov? Ma di che stiamo parlando? Scusate. Va bene, pare sia caduto Menchov, non so dove e quando. Comunque noi mi sa che dobbiamo spostarci a seguire sta corsa a sto punto. No, ci conviene seguire il Tour de France, la tappa di oggi che pare essere decisiva. E niente, affrettiamoci, salutiamo chi è stato con noi oggi. Filippo Cauz dalla Francia, Francesco Bozzi al solito attendibilissimo col suo invadente, ringraziamo Mauro Bulbarelli e Davide Cassani che a loro modo ci hanno aggiornato su questa tappa di non sappiamo ancora cosa, ringraziamo Riccardo Spinelli che ha finalmente espletato i suoi doveri da studente ed è in vacanza, e Angelo Trofa oggi ha preso un turno di riposo ma torna presto, e noi ci vediamo presto, ci vediamo qualche giorno dopo il tour, non sappiamo ancora bene quando, ma stiamo preparando una puntata speciale conclusiva in cui vi parleremo anche di qualche sorpresa che sta per arrivare da parte di Bidon. Basta, ci vediamo presto, ciao. Vieni al Tour de France, vieni insieme a me, un giro come quello al mondo non ce n'è, c'è la maglia gialla, la maglia a pua, poi chi vince il Tour nella storia entrerà. Olè! Tappa indimenticabile, gentili telespettatori. Semplicemente stupenda, poi una marea di gente, uno spettacolo...